Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La borsa oggi va bene a Milano, vicina Piazza Affari 22.000 punti, più 1,86%, 21.916 punti, bene anche a Francoforte, più 1,22%, più modesto rialzo di Parigi, più 0,60%, Londra, più 0,80%. Molto forte la Popolare di Milano, più 4,90, ma anche altre banche, penso la Popolare Emilia Romagna, più 2,70, Ubibanca, più 2,60, come Intesa San Paolo e il Banco Popolare. Monte dei Paschi invece guadagna meno di altre banche, ma la notizia sul Monte dei Paschi oggi ha a che fare con l'assemblea degli azionisti. Perché lo dico? Perché Monte dei Paschi fa più 0,36%, perché è intervenuto Grillo, c'è stato un battibecco con il presidente Profumo, ne parleremo nel corso del programma, così come parleremo anche di quello che potrebbe essere l'impatto, anzi che sarà l'impatto, dei cosiddetti stress test sul sistema bancario italiano. Perché lo diciamo? Perché da questo punto di vista l'autorità bancaria europea ha reso noto i dettagli con cui verranno condotti gli stress test sulle principali 124 banche europee. Avranno criteri più severi rispetto a quelli utilizzati nel 2011 e rivelatesi un flop. Faccio un esempio: il gruppo bancario assicurativo Dexia aveva superato i test a pieni voti, poi peccato che sia fallito ed è stato salvato dagli interventi di Francia e Belgio. Questo potrebbe però cambiare appunto anche e avere un impatto anche sulla gestione bancaria. Ne parliamo nella seconda ora del programma, quindi Monte dei Paschi e banche sotto stress test, più che sotto stress in senso stretto. In apertura invece continuano i nostri viaggi nei vari settori produttivi. Oggi è la volta del settore tessile e abbigliamento, una delle 4A fondamentali nel nostro Made in Italy, un settore che anche alle prese con un rinnovo contrattuale importante, con lacerazioni anche in chi rappresenta il mondo del tessile. Per quello che riguarda la borsa, volete sapere anche chi perde? Avete ragione, praticamente nessuno oggi. Il titolo che guadagna meno è Buzzi-Unicem, che è invariato, poi c'è Enel Green Power più 0,10%. Sono usciti i dati dell'ENI? Sì, sono usciti, sto rispondendo alle domande che arrivano al 349 238 6666. Sono usciti utile netto del primo trimestre 1.300 milioni di euro, meno 15%. Il risultato adjusted, come si dice in gergo, è comunque pari a 1.190 milioni di euro. La produzione dell'ENI ha toccato quota 1.583.000 barili al giorno, quindi su base omogenea è quasi invariata, più 0,6%, visto che va escluso il disinvestimento da Arctic Russia. Allora, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente le altre notizie in breve. Sul fronte dell'economia internazionale è stata presentata ufficialmente adesso l'offerta della Siemens per la francese Alstom. Lo ha dichiarato il ministro dell'economia francese Arnaud Montebourg durante una risposta, un question time all'assemblea nazionale. Sono anche arrivati oggi dati sulla crescita di alcune economie europee, non necessariamente dell'area euro. Mi riferisco alla Gran Bretagna, più 0,8% il PIL nei primi tre mesi del 2013, che vuol dire che la crescita su base annua sarebbe del 3,1%. Sale la disoccupazione in Spagna invece, 25,9%, anche se scende il numero di chi cerca lavoro, ma il tasso di disoccupazione sale al 25,9%. Praticamente in Spagna ci sono quasi 2 milioni di famiglie che hanno tutti i membri disoccupati, per cui padre, madre e figlio, 2 milioni di famiglie. Le famiglie con tutti i membri disoccupati sono aumentate nel primo trimestre del 2,7% a quota appunto 1.978.000. La deflazione rischia di colpire anche la Germania, meno 0,3% rispetto al mese prima l'andamento dei prezzi tedeschi ad aprile, più 1,1% rispetto a un anno prima, ci si attendeva un più 1,3%, e questo, sappiamo che per la Banca Centrale Europea l'inflazione deve stare intorno al 2%, tra il 2 e il 3%, vuol dire che i prezzi rallentano più del previsto, e questo pone comunque un'ulteriore pressione sulla Banca Centrale Europea per le misure antideflazione, ossia prezzi in calo. Il dato comunque di oggi è il preliminare, domani uscirà invece quello di tutta l'area euro quanto a andamento dei prezzi al consumo. Volete sapere gli stress test? Ne parliamo nella seconda del programma. Comunque, uno degli elementi che vanno utilizzati per vedere come reagiscono, come reggono le banche, le 140 banche europee, sarà immaginare uno scenario in cui i prezzi degli immobili calino, crollino del 21%. È chiaro che sono scenari estremi, quello che è successo in questi 5 anni neanche tanto, però del 21%, e le borse crollino del 19%. Lo ha comunicato la stessa European Banking Authority. Per quello che riguarda gli stress test, la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che le banche avranno poi 9 mesi di tempo, se non dovessero passare i test, per rimettersi in riga e quindi varare aumenti di capitale, però un massimo di 6 mesi per chi non passerà lo scenario stress di base, quello normale, diciamo. Verranno dati 6 mesi. Chi non passerà invece il test sullo scenario peggiore, appunto quello di che immagina un crollo delle borse del 20% e anche del prezzo delle case, avrà 9 mesi per ripatrimonializzare. Intanto oggi è l'asta dei BTP a 5 anni e a 10 anni collocati dal Tesoro italiano. È andata benissimo, nuovi minimi da record, rispettivamente all'1,84% per i 5 al 3,22% per i 10 anni, i BTP a 10 anni. Buona la domanda nel giorno in cui il ministro dell'economia e delle finanze Piercarlo Padoan è giunto a Londra per presentare l'agenda politica ed economica dell'Italia alla comunità finanziaria britannica, anche in vista della presidenza europea, della presidenza italiana europea che partirà a luglio. Padoan ha anche detto che un euro più debole sarebbe meglio per l'Europa, non solo per la competitività ma anche per evitare che i prezzi scendano. Allora, l'unico dei grandi paesi dove la fiducia dei consumatori è cresciuta questo mese, o meglio il mese di aprile, sì, qui si sta chiudendo, è l'Italia. Lo dico perché ieri abbiamo dato il dato sull'Italia, infatti c'era stato un nuovo aumento della fiducia dei consumatori italiani che era tornata ai livelli di maggio 2010. Oggi c'è il dato su tutti i paesi, l'unico paese in cui cresce è l'Italia. In Germania la fiducia cala di 0,4 punti, in Olanda e Spagna di 1 punto, in Francia dello 0,3%. Oggi il dato sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere ha toccato un nuovo record, il livello più alto dal giugno del 2011. Sono buone le attese sugli ordinativi industriali, ma anche sulla produzione e sulle scorte. Invece peggiorano le opinioni di tutti i manager e dei proprietari di imprese delle costruzioni e dei servizi, che hanno visto il loro indice sulla fiducia tornare a calare. Alitalia, la saga Alitalia, allora nessuna lettera è arrivata ancora da Etihad, lo hanno anticipato i sindacati, non ci sono novità sulla lettera, ancora non è arrivato nulla, ma da quello che sempre anticipa il segretario nazionale della FILT CGL Mauro Rossi, Alitalia mirerebbe a risparmiare fino a 400 milioni di euro l'anno, quindi un bel po' in più rispetto ai 300 milioni di euro previsti dal piano dello scorso luglio. Del Monte dei Paschi continuate a chiedere. Allora, Grillo era andato all'assemblea perché è un azionista del Monte dei Paschi, se una delle azioni ha tutti i diritti di andare all'assemblea. Era assente il presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Antonio Lamansi, c'era Alessandro Profumo. Non era possibile partecipare, a chi non fosse iscritto a partecipare dentro i lavori, ecco perché Grillo, diciamo, le sue dichiarazioni, c'è chi parla di comizio, le ha tenute all'ingresso. Comunque l'assemblea ha avuto voto favorevole, sì, hanno votato sì il 99,17% dei presenti sì al bilancio. Al momento del voto era presente il 34,22% del capitale, quindi visto che in seconda convocazione bastava come quorum. E Grillo, diciamo che non c'è andato leggero, ha detto qui c'è la mafia del capitalismo e qui la mafia del capitalismo, non in Sicilia. Qui siamo nel cuore della peste rossa, qui siamo nel cuore del vuoto di scambio, intanto qui continuano a votarla perché ti dà il lavoro, ti dà le cooperative, ti dà i finanziamenti, su tutto. Questo è il vero mafia del capitalismo, è qua, non è in Sicilia. Sicilia non scambiano più niente perché non c'è una lira. Monte dei Paschi è in tutte le situazioni, in tutti gli appalti, dagli inceneritori alle biomasse, a tutto ciò che è contro o la salute o contro il dinamismo del futuro di questo paese. Parleremo dell'assemblea del Monte dei Paschi più avanti. Adesso però vorrei, come promesso, continuare il viaggio che stiamo compiendo da mesi, non tutti i giorni, ma in maniera abbastanza completa e esaustiva nei vari settori produttivi di questo paese. Dopo esserci occupati recentemente dell'agroindustria, del settore vitivinicolo, adesso e del settore del mobilio arredo, adesso la volta dell'abbigliamento, del tessile abbigliamento, che significa quasi 500.000 di addetti in Italia e 50.000 aziende. Eh sì, parliamo del mondo del tessile, ma non solo per capire come va un settore che da noi vuol dire sostanzialmente quasi 500.000 di addetti e 50.000 imprese, con un fatturato di 50 miliardi di euro, in calo anche nel 2013 sul 2012 del 2%, però con un export ancora molto molto forte, 27 miliardi di euro esportati nel settore tessile moda, come si chiama in gergo. Il saldo commerciale è positivo per quasi 10 miliardi di euro, tra quello che esportiamo e quello che importiamo 9 miliardi e mezzo, più 8,6%, ma i consumi interni di abbigliamento sono risultati l'anno scorso ancora in pesante calo, pesantissimo, meno 5,5%, e altri addetti se ne sono andati, un altro 2% degli addetti che appunto a questo punto sono scesi a 414.000. Però non parliamo solo dell'andamento del settore, perché c'è anche una battaglia in corso tra chi rappresenta i tessili. Ora va detto che per essere un settore così importante la rappresentanza non è il massimo, nel senso che le due associazioni che li rappresentano una quota parte di queste 50.000 imprese. Allora, da un lato c'è il sistema Moda Italia, che è la federazione aderente a Confindustria, ha 1.100 iscritti come imprese, chiaramente. Dall'altra c'è un'associazione che anch'essa è dentro Confindustria, si chiama Tessilvari, e a cui aderiscono, secondo Tessilvari, 1.500 imprese, in prevalenza piccole. Che cosa è successo? È stato firmato un contratto su base nazionale che prevede, se non ricordo male, un aumento di 118 euro in media. Però un contratto che non è stato firmato da Tessilvari, quindi da chi rappresenta i piccoli, sostenendo che era troppo oneroso per i piccoli, le piccole aziende del tessile e che è stato fatto un regalo ai grandi. Allora, il leader di Tessilvari si chiama Matteo Cavelli e lo ha intervistato qualche giorno fa il nostro Oscar Giannino nella versione di Oscar. Sentiamo, diciamo, l'accusa che fa Cavelli, dicendo è un contratto da 118 euro lordi di aumento per quello che riguarda il quarto livello, sostanzialmente che è sostenibile e va, non dico a vantaggio, ma può essere accettato solo dai grandi gruppi del tessile. I grandi gruppi hanno prevalso perché hanno firmato questo contratto con 118 euro lordi di aumento per quel che riguarda il quarto livello, che era un po' quello preso come base, che risulta oltretutto essere una cifra superiore all'ultimo rinnovo. Questa è la cosa già che è anomala, perché l'ultimo rinnovo era stato di 104 euro. Con la crisi che c'è stata, i problemi che ci sono stati, c'è stato un ulteriore aumento. Io mi sono domandato come mai, e anche l'ho chiesto all'altra. E che le hanno detto? Ma devi sapere leggere bene tra le righe del contratto, perché comunque è molto vantaggioso. Allora io ho provato e mi sono impegnato e me lo sono letto tutto quanto questo contratto. Allora poi alla fine ho capito dov'era il nodo di questo contratto. Sostanzialmente l'altra associazione ha, tra virgolette, barattato un aumento contrattuale più o meno giusto, sacrificando la parte a monte delle aziende per cercare di regolamentare la parte a valle, ovvero il retail, i negozi monomarca. Allora, dice Cavelli, insomma, è un contratto firmato dai grandi, tra l'altro si è sacrificata la parte a monte, chi produce, i piccoli che producono, per dare un vantaggio alla parte a valle, quindi il retail, ossia chi vende il prodotto ai clienti e in particolare i negozi monomarca. Allora parliamone con chi rappresenta, non dico la controparte perché dovrebbero essere dallo stesso lato visto che tutti e due rappresentano i produttori, ma con chi il contratto l'ha firmato, appunto il presidente del Sistema Moda Italia, Claudio Marenzi, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo subito dall'accusa che abbiamo appena ascoltato da parte del presidente del sistema delle Tessilvari, come si chiama appunto in gergo, e in gergo è il nome vero, Matteo Cavelli, dice che avete firmato un contratto sostanzialmente per fare un favore ai grandi produttori e ai negozi a valle, quindi monomarca. Non è così, i 118 euro di aumento sono in linea, tra l'altro siamo 118 al quarto livello, normalmente si prende come esempio il terzo livello, per cui il terzo sono 112 ed è in linea con tutte le altre contratti chiusi di associazione di beni di consumo, per cui siamo in linea a livello nazionale con tutti gli altri settori. Riguardo al valle, per la prima volta abbiamo integrato il contratto industriale a quello commerciale, per cui devo dire, visto che comunque questo succede ormai in tantissime aziende, abbiamo reputato molto importante questo passaggio. Ecco, in questo contratto c'è anche la concessione di un bonus di 250 euro annui per i lavoratori delle aziende che non hanno il contratto integrativo, cioè che non hanno il secondo livello, come si chiama in gergo, e anche questo viene contestato. In sostanza, dicono i piccoli, in questo modo solo chi è grosso regge questi aumenti contrattuali e che senso ha negoziare un contratto di aumento se poi la fabbrica o appunto l'azienda chiude? Guardi, i 250 non esistono, esiste un 200 e un 280. 200 per chi non sottoscrive un contratto aziendale o chi non l'ha sottoscritto nel passato, e 280 per chi non l'ha sottoscritto nel passato e non lo sottoscriverà nel futuro. Questo però ovviamente è una salvaguardia dei lavoratori fondamentalmente. Mi sembra strano che i tessilivari contestino quello, perché visto che loro fanno i contratti aziendali, su questo non avrebbe nessuna ricaduta su di loro, perché chi firma un contratto interno aziendale non è sottoposto a questo bonus, per cui di fatto non esiste. Direi anche un'altra cosa, stiamo parlando di due associazioni, l'associazione Sistema d'Italia, che ha un parco di associati di 1100 aziende vere, reali, e che comunque sottoscrive un contratto che viene poi firmato dalla maggior parte delle 50.000 aziende che partecipano al settore del tessile abbigliamento, mentre invece per quanto riguarda i tessili vari, se si va a vedere sul numero degli iscritti, sono solo 64. Non so dove loro dove dicono pescano. 1500 imprese. 1500 potrebbero essere forse il loro indotto, ma a sistema sono 64. Lei capisce che 64 aziende sono veramente poche per poter anche solo. Diciamo così, e sono tutte concentrate in Lombardia, se ho ben visto. Sì, più che in Lombardia sono concentrate nella provincia di Varese e dintorni, per cui stiamo parlando di una piccola realtà molto ego riferita e credo anche nella persona del proprio presidente. Allora, dall'altra parte poi ci sono i sindacati che sono d'accordo con voi, perché dicono che sostanzialmente Tessil Vari vuole utilizzare la crisi per far accettare di tutto ai lavoratori. Però mi dico una cosa, in realtà, poi andiamo anche all'andamento del settore, c'è il rischio che questo contratto vada a penalizzare di più le piccole imprese? Guardi, la nostra associazione rappresenta più piccole che medie e grandi, per cui lei può immaginare l'attenzione che noi abbiamo sulle piccole aziende. Di fatto non è così, perché questo aumento è basato sui 3 anni, dove addirittura nei primi 2 anni è possibile prorogare questo aumento, per cui si può arrivare fino al terzo anno privi di questo aumento. Questo proprio perché, cioè, se un'azienda è in difficoltà può non applicare l'aumento? Esatto, in caso di un'azienda in difficoltà dimostrabile o dimostrato, per i primi 2 anni può derogare questo aumento, proprio perché in questo momento il settore è un settore che sicuramente non è in piena salute, e lo sappiamo perfettamente. Di nuovo in diretta alle 17:35 minuti con Sebastiano Barisoni. No, nessuno sta criticando gli aumenti, anzi, chi si oppone agli aumenti, mi riferisco al settore tessile, è una categoria del tessile che li ritiene troppo onerosi. Comunque, vorrei andare avanti con il presidente del Sistema Moda Italia, che è appunto la federazione che rappresenta il maggior numero di iscritti del settore. Ricordavo i dati sull'export, al di là del rinnovo contrattuale: 27 miliardi di beni del tessile, quindi abbigliamento, esportati l'anno scorso, con un saldo commerciale, quindi la differenza tra quello che abbiamo importato, di 9,5 miliardi. Questo segnala la capacità del sistema moda italiano, moda e tessile, di stare sui mercati, se no non riesce a esportare 27 miliardi. Il problema anche per voi sono i consumi interni. Faccio notare che nei primi 2 mesi 2014 l'andamento dei consumi dei prodotti di moda ha fatto -5%, voi è chiaro che avete anche la possibilità di entrare in tutto il segmento, siete già nel segmento di lusso che va fortissimo nei paesi emergenti, ma vorrei capire dove vedete le maggiori criticità. Tra l'altro stiamo raccontando non solo di quanto i paesi emergenti consumino lusso, che come prezzi è ancora lusso, ma come volumi è ormai quasi un settore di massa, ma raccontiamo anche di come si sono polarizzati i consumi in Italia, per cui anche in Italia va bene il lusso, va bene Zara ed H&M, con la conseguenza che viene distrutta o ridotta moltissimo la fascia di mezzo. Dove vede Marenzi le maggiori criticità? Guardi, parlando di mercato, questa è una tendenza che continua, anche se c'è una propensione del consumatore a cercare un value for money, per cui un prodotto che abbia un bilanciamento qualità-prezzo giusto, e per cui si sta cercando un prodotto sempre di più, diciamo così, di alta qualità a un prezzo accessibile, per cui questo in effetti avvantaggia anche le medie aziende. È chiaro che avvantaggia quelle medie aziende che sanno approfittare di questi gap dei grandi marchi o dei marchi di mass market, e per cui riescono a fare il loro mercato. Detto questo, il mercato interno è sicuramente il mercato che in questo momento sta soffrendo di più, insieme all'Europa, ma di fatto l'Italia insieme alla Spagna sono due mercati che stanno soffrendo moltissimo, mentre l'estero, soprattutto alcuni mercati, Estremo Oriente e Stati Uniti, sono in netta ripresa. Ovviamente questo comporta che chi riesce ad esportare ha dei vantaggi, chi invece non riesce a esportare ne ha solo dei lati negativi. Devo dire che comunque non sono solo le grandi aziende che esportano, ma anche le medie e anche le piccole, per cui non è una questione di grandezza, è questione di riuscire ad avere delle opportunità, a cogliere opportunità che alcuni altri non colgono. Beh, noi diciamo spesso, non solo per il settore del tessile e della moda, che il problema non è se sei piccolo, il problema è se sei nano. Cioè, piccolo è una dimensione fisiologica, tu puoi avere una dimensione piccola ma essere in una filiera del valore in cui fornisci per esempio a un grande marchio. E altra cosa, essere nani, ossia tu puoi avere anche dimensioni non piccole, però essere da solo ed essere rispetto ai tuoi concorrenti nano. Guardi, se devo parlo da più da imprenditore che da presidente di SMI. Per me non è né essere piccoli né essere nano, è essere capaci di fare il proprio lavoro e di non saperlo fare. Questo è, bisogna anche un po' togliersi questa, diciamo così, questo a tutti i costi, lamentarsi a tutti i costi dicendo siamo piccoli, non ce la facciamo e quant'altro. Guardi, faccio un esempio della mia azienda. Nel 2007 fatturavano 7 milioni di euro, quest'anno chiudiamo, nel 2013 chiudiamo a 50, con una previsione nel 2014 di, come si di chiama? Chiusura Erno. Per cui, vuol dire, ero nano 7 anni fa e non sono più adesso, ma non perché, fondamentalmente perché abbiamo fatto i passi giusti. Per cui anche su questo il lamentarsi del fatto del nanismo, a mio avviso non fa bene, soprattutto ai nani. Allora, per quello che riguarda le dimensioni, ho capito, lei dice attenzione che c'è la possibilità comunque di crescere al di là di quello che è la possibilità che offre il mercato, ma occorre fare scelte anche sui mercati. C'è a proposito di mercati, un ultimo aspetto che mi interessa, ossia è passata lo scorso 16 aprile con un voto abbastanza, diciamo, schiacciante, 485 voti a favore e 130 contrari, è passata, dicevo, la direttiva sul Made In. Il Made In è un tema molto discusso in Europa, sappiamo che c'erano diverse posizioni tra il sud, il centro e il nord Europa, e quindi il Parlamento europeo ha chiesto a Strasburgo che sia resa obbligatoria l'indicazione del Made In per i prodotti non alimentari venduti nell'Unione Europea. Nel caso specifico, oltre ai prodotti non alimentari, ce ne sono altri che possono derogare, penso soprattutto ai medicinali, ma secondo la proposta approvata, i produttori dell'Unione Europea potranno scegliere se mettere sull'etichetta la dicitura Made in Europe, Made in EU per la precisione, oppure Made in Italy, Made in France e quant'altro, dove in questo caso però il paese di origine è quello in cui c'è stata l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Sappiamo che molti produttori del tessile italiano fanno fare una lavorazione di base fuori, non solo del tessile, anche del legno arredo, e poi fanno le finiture, chiamiamo così, l'imballaggio, il packaging, ma anche le finiture di maggior pregio le fanno fare in Italia. Allora, vi soddisfa questo accordo a livello europeo? Guardi, ci soddisfa, non completamente, ma ci soddisfa, perché comunque è un primo passaggio. Noi eravamo presenti, io ero a Bruxelles in quei giorni a spingere anche sui nostri parlamentari, è un grandissimo risultato, perché dobbiamo ricordarci e sapere che abbiamo tutta il nord Europa, compreso e soprattutto compreso la Germania, che è assolutamente contrario a tutto questo, perché loro sono dei grandissimi trasformatori, non sarebbe più possibile per loro etichettare dei prodotti made in Germany, per cui sono assolutamente contrari. Si potrebbe fare meglio per quanto riguarda soprattutto le trasformazioni sostanziali. Siamo a un buon punto, a mio avviso è un risultato che di gran lunga ci soddisfa più che altro. Ecco, direi che queste sono le lotte che dovremmo essere coesi e condividere la strategia, perché sono quelle che ci permettono, come dicevo prima, di poter esportare o di non esportare, perché comunque in giro per il mondo e anche in Europa c'è tanta voglia di made in e di made in Italy. Per cui, ripeto, queste sono le lotte su quale dobbiamo essere poi tra l'altro coesi e non perderci delle lotte intestine sui contratti, quando perché questo, diventa fondamentalmente diventa questo poi è chiaro, no, faccio una precisazione a chi scrive: sul Made In, i paesi del nord e del centro nord Europa erano ancora più, diciamo, morbidi, nel senso che loro non vorrebbero la denominazione perché vanno a importare e trasformare nella parte finale, no? Per cui su questo attenzione, perché c'è chi dice no, è sbagliato mettere Made in Italy se tu hai fatto solo l'ultimo passaggio o la parte finale, diciamo, della lavorazione. Però attenzione che questo è un modo per tutelare il Made in Italy italiano rispetto al Made in Italy di altri paesi. Sì, diciamo che noi, almeno per quanto riguarda il tessile, tutela l'Italia, perché siamo l'unico paese in Europa che ha ancora una filiera tessile. Per altri settori vuol dire, soddisfa anche degli altri paesi, soprattutto i paesi del Mediterraneo e la Francia. Detto questo, i paesi del nord sono contrari a questo, perché sono di fatto dei paesi dove non esistono più dell'industria, ma esiste solo delle commerciali. Cioè loro fanno tutto il prodotto fuori, per far capire a tutti, lo importano e poi H&M piuttosto che altri fanno solo la distribuzione. Lei ha fatto due esempi, H&M e Zara, e lei si va a vedere i prodotti, sono tutti fatti estremamente anche fuori. Anche nelle finiture, tutto? Tutto completamente. Quindi non c'è l'ultimo passaggio, no, che invece c'è in Italia, almeno quello c'è in Italia, poi delle volte ci sono Italia, tutti i passaggi. In Italia si fa ancora tanto prodotto, tantissimo, magari si usano dei tessuti o si usano dei filati, sa, bisogna anche stare attenti a dove fermarsi su questi passaggi, perché se andiamo indietro troppo e arriviamo a dei punti della filiera dove noi non presidiamo più. Parlo di tessuto può essere fatto in Italia, il filato ormai è molto difficile sia fatto in Italia. Se poi andiamo oltre il filato, lei capisce che le materie prime noi non ce le abbiamo, per cui è un tema molto delicato, molto dibattuto e molto delicato. Sì, però tutela l'Italia, perché noi almeno uno, due, non dico tutti quattro i passaggi, almeno uno, due li facciamo in Italia, e poi in alcuni casi facciamo anche il tessuto qui e con grandi case di eccellenza. Filato sono d'accordo con lei, è più difficile, la materia prima lasciamo stare, non abbiamo materia prima, però tutela l'Italia, mentre diciamo, obbligherebbe gli altri paesi a non poter scrivere Made in Sweden o Made in Germany o Made in Spain, perché se non fai nemmeno l'ultimo passaggio poi, se ho ben capito, solo scrivere Made in Europe, Made in EU. No, neanche quello, perché se i paesi di origine sono Cina, Bangladesh, che è molto in questo momento molto dibattuto, quant'altro, devono mettere poi per forza Made in China, Made in Bangladesh, che in questo momento è comunque non è molto apprezzato dai consumatori. Beh, per motivi anche umanitari, etici e umanitari. Grazie a Claudio Marenzi, presidente del Sistema Moda Italia. Grazie a voi. Buonasera. Adesso andiamo verso la borsa, dopo il traffico. Vedo tra l'altro che c'è chi le fa i complimenti, visto che lei è anche il proprietario di Erno, prodotti incredibili, dicono alcuni ascoltatori, mi rifaccio a loro. Sul Made In abbiamo parlato molte volte, non posso tornare sul tema. Attenzione, so che c'è chi dice no, se vuoi scrivere Made in Italy tutto deve essere fatto in Italia, però in questo modo rischiamo, visto che non passerà mai questa cosa, di fare un grosso favore a chi non fa nulla nel paese in cui mette Made in. Vedi i casi che ho citato, i paesi del nord Europa fanno fare tutto fuori, a meno qui non è vero che facciamo solo la parte finale, in molti casi, ripeto, facciamo anche i tre quarti dei passaggi o i quattro quarti, non è vero, non è, ci dipende che tipo di azienda sei e a che mercato ti rivolgi. Però per favore, per un eccesso di integralismo sul Made In, non facciamoci del male da soli, non facciamo i masochisti, tuteliamo almeno quando una parte della produzione viene fatta in Italia, se no l'alternativa è il caos attuale, per cui nessuno è obbligato a scrivere nulla, e vorrei vedere se certi produttori del nord Europa fossero obbligati a scrivere Made in Bangladesh o Made in China, perché non fanno nulla in Europa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, mi scuso per la bassa qualità della mia voce oggi, ma è arrivata la lettera. È arrivata la lettera. Lo ha confermato il ministro Lupi, la compagnia aerea di Abu Dhabi Etihad ha risposto alla lettera di risposta mandata dall'Italia. C'era stata una prima lettera di Etihad con le richieste, una risposta di Alitalia, adesso una nuova lettera di Etihad. Gianni Dragoni, l'hai letta sta lettera? Ho letto la dichiarazione di Lupi, che è sempre un po' il portavoce, non so quanto attendibile, perché ne ha dette tante, comunque non ci sono state altre repliche, altre reazioni. No, perché i sindacati questa mattina dicevano che insomma l'obiettivo era arrivare a 400 milioni di risparmi all'anno, non più 300, però non mi sembra poca cosa rispetto alla posta in ballo. Ricordo che in ballo c'è l'ingresso di Etihad con 500 milioni di euro, comprandosi il 50% del capitale di Alitalia, che rappresenterebbe a questo punto l'ingresso, il salvataggio di una compagnia aerea che perde tra i 500 e i 700 mila euro al giorno. Beh, se l'operazione si realizza, certamente, come abbiamo già detto, Etihad ha posto delle condizioni, diciamo, draconiane. In pratica comprerebbe un'attività senza debiti o con molti meno debiti, con molto meno personale, quindi la comprerebbe a un prezzo molto vantaggioso. Se non ci sono altre proposte, pare non ci siano, salvo l'ipotesi sempre France, ma che si era ritirata perché non vedeva accolte le sue richieste, quindi sembra un po' l'unica possibilità quella di Etihad, naturalmente lasciando degli oneri sugli attuali azionisti, per cui non sarebbe un salvataggio ma solo di una parte, no, dell'Alitalia, da quello che conosciamo. Allora, ma da quello che ti risulta verrebbe confermato il taglio di organico fino a 3.000 unità, rinegoziazione del debito con uno sconto fino a 400 milioni. Ieri abbiamo visto le banche coinvolte, Intesa San Paolo e Unicredit, essere più morbide su questa rinegoziazione del debito. Cioè il rischio per le banche è che se non rinegoziano perdono tutto, visto che hanno crediti nei confronti di Alitalia. E poi liberalizzazione degli slot di Linate e impegno del governo a servire Fiumicino con l'alta velocità. Ma qualche apertura pare ci sia stata, dico pare perché le banche non hanno fatto nessuna dichiarazione, nessuna affermazione. L'unico fatto nuovo vero è stata la ripresa degli incontri con i sindacati per il taglio ulteriore del costo del lavoro, per oggi senza raggiungere dei passi ulteriori, però c'è da ritenere che se questo confronto è ripreso, l'Alitalia ritenga di avere delle carte da giocare. Il sindacato aspetta che queste carte vengano scoperte, fino ad oggi non è avvenuto. Credo che insomma ci saranno ancora dei passaggi importanti. Ecco, facci capire una cosa, adesso è arrivata la controreplica, diciamo, di Etihad, non replica, insomma. Non sappiamo se la lettera di intenti o se è una controreplica. Questo è perché insomma, non penso che si possa andare avanti a colpi di lettera, a parte che esistono anche le mail, ma insomma, diciamo, al di là della battuta, cioè adesso Etihad ha fatto le sue richieste, l'Italia ha risposto, risponde Etihad, dovrebbe essere l'ultimo giro o no? Se non è l'ultimo giro vuol dire che, se non fosse l'ultimo giro, vorrebbe dire che probabilmente le difficoltà sarebbero molto, molto elevate, difficili da superare. Per cui dice la lettera, che era attesa una lettera definita di intenti, cioè come lettera che mettesse giù dal punto di vista legale i confini per cui procedere a quella che è la cosiddetta trattativa in esclusiva tra due società, cioè in modo che ci siano degli impegni anche di riservatezza, di non trattare con altri, per arrivare nell'arco di un mese, forse due, anche a chiudere un accordo. Sì, anche perché sappiamo che d'estate le cose vanno un po' meglio per i conti, perché ci sono le vacanze, la gente vola, poi però le perdite riprendono a settembre-ottobre, per cui questa è la finestra, l'abbiamo spiegato già in altri casi. Grazie Gianni Dragoni per quello che hai potuto vedere anche tu, confermate quindi che è arrivata la lettera, non sappiamo se è una lettera di repliche o una lettera di intenti. La conferma è arrivata dal ministro Lupi. Nel frattempo la borsa ha chiuso, più 2,15% Milano, la più forte oggi tra le borse europee. Più 2,15%. 15% grazie alla Pop Milano che fa il 5,40% di rialzo, ma anche Atlantia più 4%, Fiat più 3,70%, Mediaset più 3,20%, Pop Emilia Romagna più 3,14%, Autogrill più 3%, Ubibanca più 3%, Eni più 3%, Banco Popolare più 2,70%, come Intesa San Paolo, Telecom Italia più 2,5% come Iux, Enel più 2,30%, ST Microelectronics più 2%. Non c'è nulla di negativo oggi, non crescono, Buzzi Unicem, cresce poco G-Tech. Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Flavia, partiamo dalle banche popolari soprattutto oggi, BPM da un lato, ma anche Popolare Emilia Romagna, Ubibanca, vai. Sì, allora le banche oggi sono andate tutte bene, hanno usufruito sicuramente della giornata positiva per il listino e poi c'è stata BPM che in qualche modo ha guidato lo strappo delle popolari e ha chiuso col più 5,4%. Diciamo il titolo non era partito bene all'inizio perché in qualche modo pesavano queste indiscrezioni del Sole 24 Ore che parlavano del fatto che lo sconto per il prezzo delle azioni di una emissione per l'aumento di capitale atteso potrebbe essere superiore al 30% che era lo sconto offerto dal Banco Popolare. Però nell'arco della giornata probabilmente l'attesa per il consiglio di gestione di domani, che dovrà proprio definire quali saranno i dettagli dell'aumento di capitale, ha fatto invertire la tendenza e quindi sono emersi gli acquisti e con il miglioramento del listino anche BPM è migliorata. E questo per quello che riguarda appunto l'andamento della giornata, e appunto c'è il consiglio di gestione di domani che dovrebbe, salvo sorpresa, approvare l'aumento di capitale. L'altro titolo che mi interessava era Mediaset, perché oggi il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha ammesso l'interesse di alcuni grandi gruppi, tra cui Al Jazeera, però non ha ancora dato chiarimenti su dove si stia orientando Mediaset. Sì, esattamente, ha detto Pier Silvio Berlusconi a margine dell'assemblea degli azionisti di oggi, ha detto stiamo dialogando con più gruppi internazionali, anche se ha precisato che non c'è nessun accordo vincolante siglato, si fanno sempre i nomi appunto di Al Jazeera, che è la televisione del Qatar, e anche di Canal Plus, che è del gruppo francese Vivendi, e poi comunque ci sono anche attese sulle possibili trattative sul Digital Plus. Ne ha parlato sia Confalonieri e poi anche per Silvio Berlusconi ne ha riparlato. Fedele Confalonieri ha voluto tranquillizzare e non si è voluto sbilanciare dicendo che comunque Mediaset è sufficientemente attrezzata per cogliere qualsiasi opportunità ci siano sul mercato dal punto di vista della distribuzione dei contenuti a pagamento, e poi Berlusconi ha ribadito che comunque Digital Plus fa parte di un progetto di sviluppo delle TV a pagamento, però al momento ha detto vediamo cosa succederà perché per ora noi abbiamo solo una partecipazione di minoranza, quindi in qualche modo c'è questa attesa e anche gli analisti hanno sottolineato il fatto che comunque è positiva, vista positivamente dal mercato, la potenziale valorizzazione di queste attività. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'approfondimento di borsa e poi passare al Monte dei Paschi e soprattutto agli stress test, alle banche sotto stress, come le hanno chiamate alcuni. Allora, continuando con Flavia Carletti, al di là di delle banche popolari e di Mediaset, molto in evidenza oggi sia Atlantia più 3,90 che Fiat. Flavia. Sì, esattamente, Atlantia è stata una delle migliori del listino e secondo gli analisti c'è molta attesa per i conti e si aspettano che il primo trimestre sarà positivo e aumenterà anche la visibilità per l'intero anno. E poi per esempio gli analisti di Equita hanno sottolineato il fatto che i risultati dovrebbero andare bene grazie alla performance di Aeroporti di Roma, perché il gruppo dal 9 marzo ha ottenuto un incremento delle tariffe. In più Atlantia dovrebbe anche beneficiare dell'andamento delle trattative tra l'Italia e Etihad, perché Atlantia controlla gli aeroporti, l'aeroporto di Roma, di Fiumicino, e un accordo, se andrà a buon fine l'accordo tra le due compagnie aeree, l'hub di Fiumicino sicuramente vedrà confermata proprio il suo ruolo di hub, e in più potrebbe esserci anche un aumento di passeggeri, magari un aumento delle rotte, insomma si scommette sul fatto che il futuro possa essere positivo per la compagnia e quindi di conseguenza per il suo aeroporto principale. Esatto, per quello che riguarda, ne abbiamo appena parlato perché poi la lettera nel frattempo è arrivata. Conferma che è arrivata la lettera, non sui contenuti. Dicevamo di Fiat anche. Sì, esatto, Fiat ha chiuso con un più 3,70%, si parlava del fatto che potesse esserci un effetto scorporo su Fiat degli incentivi, però più di quello è proprio l'indiscrezione sullo possibile scorporo dell'Alfa Romeo, anche perché moltissimi analisti nel loro report proprio scommettono sul successo di Alfa Romeo in futuro, che potrebbe essere proprio uno dei vettori del rilancio in qualche modo del marchio e quindi ad avere effetti positivi su tutto il gruppo. Soprattutto si parla del possibile successo del marchio in Nord America e in Sud America, dove potrebbe beneficiare del fatto che può arrivare nella rete distributiva di Chrysler e quindi potrebbe avere una diffusione sfruttando ormai questa fusione, e quindi potrebbe essere proprio anche alla luce di questo sono state riviste anche tutta una serie di stime di previsioni di vendita per il gruppo al di fuori dell'Europa. Ancora, visto che oggi abbiamo commentato la trimestrale dell'Eni, come ha reagito Eni e RCS, perché è arrivata conferma che è cresciuto Urbano Cairo nella sua quota in Rizzoli Corriere della Sera, ha comprato 3,5 milioni di azioni, praticamente la sua quota adesso arriva al 3,68%. Cairo è proprietario della 7 anche, del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, RCS e Fiat. Sì, RCS ha beneficiato della notizia, sicuramente ha chiuso con un più 2,92%, e anche se Cairo comunque ha detto che per ora non ha parlato della Valle, non c'è nessun asse, quindi scommesse sul mercato da questo punto di vista non se ne sono fatte, o comunque non se ne possono fare alla luce di quello che ha detto Cairo. Comunque il fatto che lui abbia aumentato la quota sicuramente è stato ben visto dagli operatori che hanno premiato il titolo, e in più comunque c'è attesa per domani, perché ci sarà il consiglio di amministrazione di RCS per definire eventualmente individuare quello che può essere il profilo del nuovo consigliere di amministrazione. È stato chiesto a Cairo se si vede in CDA, lui ha detto se dovessero chiedermelo comunque non escludo nulla, prima diciamo è meglio non dire mai di no. Allora, migliori e peggiori: Hi-Real più 15,20, Mono TV più 12, la Pop Milano l'abbiamo detta, SNAI più 5%, Società Generale più 4,40, Il Sole 24 Ore più 4,40, tra l'altro c'era l'assemblea degli azionisti anche per Il Sole 24 Ore, fronte opposto Seat pagine gialle meno 5,50, Valore Italia meno 5,30, Intech meno 3%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore. Grazie a voi. Qui siamo nel cuore della peste rossa, qui siamo nel cuore del vuoto di scambio, intanto qui continuano a votarla perché ti dà il lavoro, ti dà le cooperative, ti dà i finanziamenti, su tutto. Questo è il vero mafia del capitalismo, è qua, non è in Sicilia. Sicilia non scambiano più niente perché non c'è una lira. Monte dei Paschi è in tutte le situazioni, in tutti gli appalti, dagli inceneritori alle biomasse, a tutto ciò che è contro o la salute o contro il dinamismo del futuro di questo paese. Il processo diventa luminoso quando nel 2001 il PD manda alla fondazione Mussari. Mussari, io l'ho conosciuto, conosce anche lei, non è in grado di fare un politico bancario, diventa presidente di questa situazione qua. Mussari, scaduto il vecchio presidente, si autonomina presidente della banca. Al suo attivo ci sono operazioni di perdita secca della banca 121, le garanzie erano qui, perdita della banca 121 e dell'Alto Veneto. Allora, tutto si può dire tranne che gliela abbia mandata a dire Grillo oggi all'assemblea del Monte dei Paschi di Siena. L'ultimo passaggio era proprio all'interno dell'assemblea, ha detto il processo, la rovina del Monte dei Paschi inizia quando il PD manda Mussari alla fondazione. Avete sentito una persona che non era capace nemmeno di fare un bonifico. Occorre processare i vertici del PD dal 2005 ad oggi, con loro anche la Consob, la Banca d'Italia e forse lo stesso Mario Draghi. Botta e risposta appunto tra Grillo e il presidente Monte dei Paschi Profumo. Cesare Peruzzi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, diciamo, il resto è andato tutto come previsto, nel senso che è presente il 34,22% del capitale, il 99,17% ha votato sì, quindi ha approvato il bilancio 2013 come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Era assente la Presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Antonella Mansi. Cosa ha risposto Profumo a Grillo? Ma diciamo, Profumo ha risposto ad alcune accuse rivolte a lui in prima persona, ma erano più battute che non nella sostanza. Mi pare che l'assemblea di oggi sia stata un'assemblea, se mi posso permettere, in tono minore rispetto alle ultime, molto meno accolorata, molto meno, non c'era una tensione minore. E la stessa assenza della Presidente Mansi era significativa, addirittura il fatto che la Fondazione per la prima volta nella storia della Fondazione non ha preso parola, non è intervenuta. Questo non toglie che non ci siano state delle critiche da parte di piccoli azionisti e ovviamente lo show di Grillo a cui tu facevi riferimento e di cui avete mandato in onda alcuni brani. Il primo era all'esterno dell'assemblea, sì, certo. E il secondo, quello diciamo con l'audio un pochettino più difficoltoso perché non era possibile riprendere direttamente dentro la sala, era quello nel corso dell'assemblea dove Grillo è intervenuto come delegato, cioè non come azionista ma in rappresentanza di altri azionisti. Diciamo la novità forse di questa volta rispetto a dicembre dell'intervento di Grillo è che ha messo sotto accusa con molta decisione e appunto senza mandarla a dire una classe politica, quella locale senese e anche nazionale di riferimento della, diciamo, del PD. Lui l'ha detto chiaramente, l'ha chiamata una sorta di peste rossa dopo la peste nera del Medioevo, insomma toni un pochettino da propaganda anche se vogliamo preelettorale, ma che hanno messo il dito su delle questioni vere, reali, insomma, quelli diciamo, politica e banca. Grillo e, anche lui in campagna elettorale e ci mancherebbe che però la gestione senese del Monte dei Paschi, diciamo, abbia creato un disastro, non lo diciamo noi, lo dicono i 4 miliardi di Tremonti e Monti Bond che sono serviti alla banca per sopravvivere. Lo dice quello che è successo nel frattempo, lo dice anche lo dicono soprattutto le inchieste della magistratura. Infatti, non è una novità, no, diciamo, no, che assolutamente. Ha scoperto Grillo oggi. No, lui diciamo, la utilizza per denunciare un meccanismo di potere e anche lui appunto in campagna elettorale. Grazie a Cesare Peruzzi, io vorrei restare invece sul tema delle banche, ma dopo il traffico, perché l'appuntamento è oggi. L'EBA, che è la European Banking Authority, ha fatto sapere come andrà a valutare le banche, sono 124 banche europee che verranno sottoposte agli stress test. Perché questo? In primo luogo perché si va verso l'unione bancaria. Allora, prima di avere una banca centrale europea che, diciamo, va, io la dico forzando i termini, a garantire per le banche, per le principali banche dell'area euro, la banca centrale europea vuole vedere che queste banche siano solide. Ecco perché si fanno questi test stress, o stress test per meglio dire, che non è che abbiano avuto una grande efficacia nel 2011. Citavamo in apertura del programma il caso di Dexia, un gruppo assicurativo franco-belga fallito, è dovuto intervenire il governo francese e il governo belga per salvarlo. Ebbene, Dexia aveva superato i test a pieni voti, quindi speriamo che questa volta siano più accurati, più duri. Stando a quello che oggi ha comunicato l'EBA, lo saranno soprattutto in quello che si chiama lo scenario peggiore, cioè si andrà a simulare come reggeranno le varie banche di fronte a uno scenario in cui la borsa crollasse del 20% e il prezzo degli immobili di un 21%. Dopo il traffico, che cosa questo vuol dire però per le nostre banche, che sono tutte, o alcune le hanno già fatte, altre sono impegnate in questi giorni in aumenti di capitale, cioè portare soldi in cassa per aumentare la patrimonializzazione. Allora, dicevamo, uno scenario in cui la borsa cala del, o crolla del 20%, il prezzo degli immobili crolla di un altro 20%, questo è lo scenario a cui devono rispondere con gli stress test le banche, le 124 banche europee. I dettagli li ha resi noti oggi l'autorità bancaria europea, European Banking Authority. Moria Longo del Sole 24 Ore qui con noi, buonasera Moria. Buonasera a tutti. Dunque, sono scenari più duri rispetto a quelli del 2011, meno duri di quelli che ha utilizzato la Federal Reserve negli Stati Uniti per andare a fare lo stress test sulle sue banche, ma soprattutto che cosa comporta questo test per le banche, in primo luogo quelle italiane? Allora, rispondo prima alla prima domanda, se sono scenari duri. La cosa interessante è che gli scenari ipotizzati sono diversi per ogni paese. Questo è interessante perché l'EBA cerca di andare a stimolare, a mettere sotto stress i punti deboli di ogni paese. Mentre i precedenti stress test erano stati fatti principalmente sui punti deboli delle banche del sud, quindi si andavano a stressare i titoli di Stato nei bilanci e così via, questa volta si vanno a stressare anche altri elementi che per esempio penalizzano banche del nord. Per esempio, è previsto che in Gran Bretagna il prezzo delle case, nello scenario avverso, quindi nello scenario ipotizzabile come peggior scenario, possa crollare del 29% rispetto alle prospettive attualmente previste nei prossimi tre anni. La stessa cosa potrebbe accadere in Svezia. In Francia è previsto un crollo del mercato immobiliare nei prossimi tre anni del 26%, in Germania del 20%, mentre in Italia sul mercato immobiliare si ipotizza solo un meno 13% come scenario avverso. Questo significa che anche le banche, per esempio svedesi, inglesi, ma anche tedesche, potrebbero molto soffrire per questo scenario appunto negativo sul mercato immobiliare, cosa per cui le banche italiane potrebbero soffrire meno. Anche per quanto riguarda le borse, si ipotizzano cali forti anche, per esempio a Francoforte si ipotizza un calo del meno 14 quest'anno, meno 13 l'anno prossimo, meno 15 l'anno prossimo. Si ipotizza un rialzo del rendimento anche dei bund, quindi diciamo questa volta è un pochino più democratico, va, questo stress test va un po' a prendere i punti deboli. È spalmato su tutti, diciamo, ecco. Perché se tu vai a vedere solo, traduco tra virgolette, vai a vedere solo cosa capiterebbe nel caso di un deterioramento del debito. È chiaro che le banche del sud, le banche italiane e spagnole, sono quelle che hanno più in pancia debito del loro paese d'origine, Italia o Spagna. Se invece tu inizi a dire attenzione, crolla il mercato immobiliare, beh, qui sappiamo che l'Italia ha tanti difetti, ma non ha mai avuto una vera bolla del mercato immobiliare. La Gran Bretagna ha avuto un'espansione, un'esplosione, adesso di nuovo è un'espansione del mercato immobiliare e via così, per cui è anche sulla borsa. Altra cosa è immaginare appunto una borsa che cali a Francoforte nelle percentuali che tu hai detto. Questo vuol dire però che dovranno preoccuparsi della patrimonializzazione del patrimonio più le banche del centro-nord Europa in vista di questi test? No, sì, dobbiamo preoccuparci anche noi. C'è uno studio che ha pubblicato oggi il Royal Bank of Scotland e dice che in base a questi i parametri ipotizzati, le banche più deboli, che potenzialmente rischiano di più, quindi di non superare questi stress test, sono le banche del sud, tra cui quelle italiane o quelle di Cipro, loro sottolineano, ma anche le banche tedesche, inglesi e scandinave. Per cui, c'è ecco, tutte, chi è che manca? Beh, ci sono, beh, l'Olanda, lo fanno su tutti i paesi dell'Unione Europea. Tra le banche italiane, le banche ritenute più deboli, però sui bilanci 2013, quindi sono dati che non tengono conto degli aumenti, di capitale già effettuati, si vede che sono molto deboli: Carige, Montepaschi, Veneto Banca, Popolare di Milano, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio. Sono tutte nella parte bassa della classifica. Però considerando che le banche italiane hanno già deliberato 11 miliardi di aumenti di capitale proprio perché erano deboli e quindi devono rafforzarsi, si stanno già rafforzando, tra l'altro aumenti di capitale concordati con la stessa Banca di Italia, certo, proprio in vista di questi esami, quindi è ipotizzabile, almeno la speranza, che con gli aumenti di capitale che già hanno deliberato e stanno per fare, le banche italiane possano passare lo stress test. Certo è che se non facciamo gli aumenti di capitale, gran parte delle banche italiane non passava questi esami. Ecco, che cosa succede a una banca che non dovesse passare la versione morbida o invece la versione peggiore di questi test? Deve fare un aumento di capitale anche non proprio un aumento di capitale, ma con strumenti ibridi, quindi sono accettate una serie di strumenti diversi, non solo le azioni emissioni di nuove azioni, per riportare i propri parametri a livelli adeguati. Il parametro è quello del Core Tier 1, è un termine tecnico, ma diciamo che un po' sono le fondamenta, come se si facesse un esame per vedere se un immobile è antisismico oppure no. Si ipotizza un terremoto di un certo grado della scala Richter, si va a vedere se le fondamenta potrebbero resistere. Se si verifica che le fondamenta non resisterebbero, allora si impone un aumento, diciamo, della volumetria delle fondamenta. Ecco, questo è quello che accadrà. Quindi le banche che non sono in grado di superare, di dimostrare di essere abbastanza forti anche in questi scenari avversi, dovranno fare l'aumento di capitale. Ripeto, molte di queste banche già lo stanno facendo. Le banche italiane più o meno tutte l'hanno annunciato. Oggi è uscita la notizia che anche Deutsche Bank, colosso tedesco, ha annunciato un rafforzamento patrimoniale da 5 miliardi. Questo vuol dire che tutti si stanno preparando per arrivare il giorno degli esami, diciamo, con i compiti già fatti. Sì, anche perché appunto il tempo, nel caso una banca non passasse i test, è di 6 mesi se tu non hai passato lo scenario più facile, quello standard, di 9 mesi per fare aumentare il tuo patrimonio, poi con l'aumento di capitale, con scenari ibridi, di 9 mesi per quello che riguarda invece lo scenario peggiore. Cioè, se non hai passato lo scenario peggiore, quello che immagina, ipotizza un 20% di crollo della borsa, un 20% di crollo del mercato immobiliare come valori, hai 9 mesi di tempo. Una domanda me la giro agli ascoltatori: ma cambierà qualcosa per i clienti / risparmiatori italiani delle banche italiane, oppure, avendo molte banche già o annunciato o effettuato l'aumento di capitale, cambierà poco o niente? Gli aumenti di capitale annunciati sono proprio in vista agli stress test, quindi è, diciamo, la stessa cosa. Cambierà nel senso che le banche saranno verosimilmente più forti, quindi il risparmiatore, il correntista è più tutelato, perché appunto se fanno l'aumento di capitale riescono a farlo sul mercato. Tra l'altro siamo fortunati perché questo è un momento buono, di mercato così favorevole, per cui lo spiego, perché i titoli di Stato valgono così poco, rendono così poco, che, diciamo, c'è liquidità sul mercato, non è difficile reperire liquidità sul mercato. Appunto, e quindi se gli aumenti di capitale andranno in porto tranquillamente sul mercato, come allo stato attuale sembra, il correntista è più tutelato, perché ovviamente la banca è più forte. Allora, grazie a Moria Longo, poi andremo a vedere come saranno i risultati di questi test. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ancora chiedo scusa per la qualità della voce, spero che domani sia migliore. Ci risentiamo comunque dalle 17 in poi domani per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.